Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Allora, c'è una bella incognita che grava sull'RC Auto, perché a quanto pare siamo alla vigilia di una risalita delle tariffe. Per la verità, qualche ritocco all'insù c'è già stato dal 1 luglio. Avevamo già dato conto di questo allarme, che è stato messo adesso in conto formalmente anche dal presidente dell'ANIA, l'Associazione delle Imprese di Assicurazione, nella relazione che Cerchiai ha tenuto il 2 luglio scorso. Perché dovrebbe succedere questo? Perché i costi dei sinistri e i costi di gestione delle imprese continuano a salire, a fronte invece di un periodo di riduzione della raccolta premi. E se per certi profili la tendenza delle tariffe era stata invece molto virtuosa negli ultimi anni, adesso il quadro potrebbe di nuovo cambiare in negativo. Allora, che cosa andiamo incontro e soprattutto quali sono i suggerimenti che possiamo dare ai nostri ascoltatori, ai nostri consumatori in ascolto, per potersi difendere anche in via preventiva da questa tendenza? Chiaramente poi, se davvero le tariffe riprenderanno a correre, ci sarebbe un poco da difendersi, però oggi il mercato è molto ricco di offerta, abbiamo anche diversi strumenti per poter confrontare l'offerta, ne abbiamo parlato anche qualche settimana fa. L'ultima iniziativa, iniziativa istituzionale, è stata quella del preventivatore dell'ISVAP, ma c'è una serie di opportunità per poter controllare e guardare bene cosa succede nel mercato. Allora, di tutto questo oggi parleremo con i nostri ospiti. Vittorio Verdone, direttore auto e consumerismo e distribuzione dell'ANIA, appunto l'associazione delle imprese di assicurazione. Dottor Verdone, bentornato a Salva Danaio, naturalmente. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Buongiorno a Barbara Baggi, esperta RC Auto e di tutto il settore assicurativo di altro consumo. Baggi, bentornata. Buongiorno a tutti. E ben trovato anche a Carlo Magnani, un collega di Quattro Ruote, caporedattore della redazione Economia e Analisi di Mercato. Carlo, buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno a tutti. Il numero verde per le chiamate degli ascoltatori, per le vostre chiamate, per i vostri interventi in diretta è 800 24 00 24. Il numero per i vostri messaggi è il 349 238 6666. Giornata di recupero in borsa finalmente dopo 3 giornate consecutive negative per il mercato azionario, qualcuna anche piuttosto pesante. Oggi si tenta il rimbalzo, che ovviamente non basta a recuperare quanto i listini europei hanno perso nelle ultime sedute, ma diciamo che rispetto a quello che si è visto nella primissima parte della seduta, adesso il rimbalzo sembra un po' più deciso, un pochino più consistente. Londra più 0,97%, Francoforte più 0,97%, Parigi più 0,83%. Meglio vanno le cose a Piazza Affari, dove il FTSE MIB guadagna l'1,12%. Sono in recupero oggi i titoli energetici, che sulla scia dell'andamento del prezzo del petrolio stanno soffrendo da qualche giorno. Il petrolio, per la verità, è ancora a $63-64 al barile, stamattina era scivolato sotto i 64 nel corso delle contrattazioni sul mercato asiatico, ma oggi i titoli del settore stanno tentando di recuperare. Infatti a Milano tra i migliori titoli figurano Saipem più 2,64%, Tenaris più 2,94%, Eni guadagnano 0,8%, ma il migliore in assoluto adesso è Buzioni CM più 4 punti. Bene Intesa San Paolo, ieri ne sono andati di nuovo piuttosto male i titoli finanziari, oggi anche questi parzialmente recuperano. Intesa, vi dicevo, più 2,70, la Popolare di Milano più 2,55, CIR più 2,40, più 2 punti per Unicredit, per Mediobanca, Campari più 1,41 e Geox più 1,40%. Non sarà passato tanto bene oggi il settore del lusso. Bulgari e Luxottica stanno perdendo l'1,7 e l'1,8%. Luxottica è migliorata, perdeva 2,5 punti fino a pochi minuti fa, adesso invece c'è un tentativo appunto anche in questo caso di risalire la china. Fra i titoli minori segnaliamo il balzo dell'Espresso da questa mattina, adesso più 5,27%. Il gruppo ha comunicato che c'è l'ok da parte del consiglio di amministrazione al piano di ristrutturazione del gruppo, piano di riduzione di costi per 140 milioni di euro, che come sempre un po' cinicamente viene guardato positivamente dal mercato. L'euro sul dollaro quota 1,39,84. Questo è il quadro di borsa di questa mattina. Oggi non dovrebbero esserci, non ci sono dati di particolare rilievo dal punto di vista macroeconomico, né arrivano negli Stati Uniti né dall'Eurozona. Avremo i dati sugli stock di petrolio, appunto, che però arriveranno in tarda serata dagli Stati Uniti, e questo sarà sicuramente un dato significativo per continuare a influenzare ovviamente i prezzi del petrolio. Lasciamo la borsa, abbiamo parlato di petrolio, tra l'altro abbiamo sentito come sia stato confermato anche lo sciopero dei benzinai che parte da questa sera e noi continuiamo a parlare di automobilisti. Oggi però ci torniamo a focalizzare sul costo dell'auto dal punto di vista dell'assicurazione. Assicurare l'auto costa meno rispetto agli anni passati. Parola dell'ANIA, l'associazione che riunisce le compagnie del settore, che la scorsa settimana, nel corso della relazione annuale, ha reso noto che negli ultimi 4 anni le tariffe RC Auto si sono alleggerite di oltre l'8%. Un calo costante che ha toccato un picco nel 2008 con un ribasso del 3,6% e che, secondo i dati contenuti nella relazione, è proseguito anche nel primo trimestre del 2009 con un meno 5,2%, anche se per l'intero anno si prevede una riduzione compresa tra l'1 e il 2%. Tuttavia, come dichiarato dallo stesso presidente dell'ANIA Cerchiai, se non si riuscirà a intervenire incisivamente sui costi, la tendenza alla progressiva riduzione dei prezzi, verificatasi negli ultimi anni, è destinata a interrompersi. Per la prima volta dal 2001, infatti, complice la crisi finanziaria che non ha risparmiato nessuno, il conto economico della RC Auto ha registrato un risultato in rosso. E perdite economiche sono solitamente l'anticamera di nuovi rialzi delle tariffe. Gli stessi rialzi che già lamentano le associazioni dei consumatori, secondo le quali le tariffe RC Auto, anziché essere calate, hanno subito una crescita del 5% medio all'anno. Una percentuale che ha portato i prezzi a crescere addirittura del 145% negli ultimi 10 anni. E se è vero che le tariffe per l'assicurazione della macchina aumentano un po' per tutti gli automobilisti di qualsiasi età e con qualsiasi classe di merito, aumentano anche quelle a carico dei neopatentati. Secondo Federconsumatori e Adusbef, in particolare, le assicurazioni per giovani con un'età intorno ai 18 anni crescono infatti mediamente del 4-5%, ma in certi casi si registrano anche punte di rincari dell'ordine del 15%. E allora 800 24 00 24, il numero verde per interagire con noi. Io devo subito interpellare Vittorio Verdone, direttore auto e consumerismo distribuzione dell'ANIA, l'associazione appunto dell'industria delle assicurazioni. Abbiamo sentito anche nella nostra scheda, ma queste percentuali erano già note perché diffuse ampiamente da tutti i giornali negli ultimi tempi e soprattutto erano cifre contenute nella relazione del vostro presidente, dottor Verdone. Abbiamo un quadro chiaro di quanto la raccolta dei premi nel settore assicurativo sia diminuita nel 2008 e abbiamo capito anche che le imprese hanno dovuto sostenere maggiori oneri, maggiori costi di gestione, il costo della gestione dei sinistri è in aumento. Tutto questo ci porta anche a poter quantificare, so che lei già non lo farà mai, però io la provoco lo stesso in questo senso, a quantificare che entità di aumenti dovremmo sopportare prossimamente. Dottor Verdone, è possibile fare, come dire, una stima preventiva di questo? Ma non è assolutamente possibile, perché i prezzi delle RC Auto non vengono stabiliti a livello centrale, i prezzi sono stabiliti dalle singole compagnie e le compagnie hanno risultati tra l'altro anche diversi al loro interno rispetto alla media di mercato. Quello che si può dire a livello generale è la conferma che si è verificato un fenomeno, cioè i prezzi effettivi delle coperture RC Auto sono diminuiti nel corso degli ultimi 4-5 anni, soprattutto nell'ultimo periodo, mentre i costi o sono rimasti stabili negli anni precedenti o come quest'anno cominciano a risalire. Se si riducono i prezzi e i costi o salgono o rimangono anche immutati, evidentemente peggiora la gestione tecnica. Solo per un esempio numerico che rende molto bene però la situazione a livello di mercato. Nel 2008 su 100 euro di premi che sono stati incassati dalle imprese ne sono stati spesi 101. Quindi questo vuol dire che c'è una perdita di risultato tecnico complessivo. Quantomeno questo euro va recuperato da qualche parte, insomma. Va recuperato, ma bisogna anche chiarire un aspetto, cioè vendere sotto costo, nel senso vendere a prezzi molto inferiori ai costi, in assicurazione non è possibile, perché l'assicurazione ovviamente deve rispondere a dei criteri di solvibilità, tra l'altro prescritti anche dalla legge, pena il fallimento dell'impresa, che non è solo il fallimento degli azionisti dell'impresa, ma ha delle ripercussioni negative sulle mutualità, sugli assicurati, sui contraenti. Quindi è un sistema molto vigilato che deve rimanere in equilibrio anche a livello di singola azienda. I problemi sono sempre gli stessi, perché non si può, nonostante alcuni interventi che sono stati realizzati, tentativi notevoli per ridurre il costo dei sinistri, perché non si sono determinati, perché ci sono delle situazioni che definirei addirittura patologiche, su cui non si riesce ad incidere. Queste sono soprattutto le voci che si riguardano le speculazioni e anche le frodi organizzate, che evidentemente sono speculazioni con un senso di antigiuridicità ancora più pronunciato, perché dietro ci sono, c'è la malavita organizzata, insomma le strutture che fanno lucro dalle attività illecite, e soprattutto questa che è il paradosso del caso italiano, del risarcimento dei danni alla persona, che sono eccessivi nel numero e eccessivi anche negli importi. Nel numero basta ricordare che in Italia su 100 sinistri, su un tamponamento in sostanza, dice lei, basta andare un attimo da un medico che ci prescriva di dover mettere il collare e lì scatta subito il risarcimento. Basta dare un numero: su 100 sinistri risarciti dalla compagnia di assicurazione, 21 hanno un danno alla persona. La media europea è esattamente più della metà, 10%. Ora è chiaro che dietro questo raffronto non può esserci che una sacca enorme di speculazione, e purtroppo non si riesce ad agire con gli apparati istituzionali per combatterla. Apparati istituzionali sono medici legali e magistratura, che dovrebbero essere un po' più rigorosi quando fanno gli accertamenti sui danni alla persona, ma soprattutto anche i riferimenti e gli orientamenti. L'1% in realtà permanente praticamente inesistente. Se io vado a farmi fare una visita adesso da un ortopedico piuttosto che una radiografia a rachide cervicale, alla mia età probabilmente potrò verificare che ho un 1%, un 2% di disfunzionalità rispetto al movimento del collo, che le dà il diritto di essere risarcito. Quindi che le fa fare una bella vacanza, un tamponamento a 8 km all'ora davanti a un semaforo è inverosimile. Ci sono studi scientifici che lo dimostrano, che io possa subire un'invalidità permanente. Ovviamente tutto questo, dottor Verdone, lo stiamo raccontando sotto forma di denuncia, non vorremmo mai invogliare a questa pratica i nostri ascoltatori, visto che praticamente stiamo indicando che è talmente facile. Ecco. Il sistema potrebbe funzionare meglio dal punto di vista dei costi e quindi dei prezzi. I prezzi non sono altro che il riflesso dei costi. Non si sfugge da questa, che è una equazione matematica. Insomma, dottor Verdone, aspetti patologici e già noti da tempo a tutti gli attori del sistema, e aspetti anche legati, come dire, ad una congiuntura economica particolarmente difficile, i costi gestionali delle assicurazioni che stanno aumentando, i sinistri e lo stesso, i premi incassati che invece sono in diminuzione. Tutto questo comporterà, come abbiamo già anticipato, una possibile riproposizione dell'aumento delle tariffe, però e lei diceva tutto questo a fronte però di una tendenza che negli ultimi anni è stata virtuosa, l'abbiamo già raccontato in altre trasmissioni, i prezzi sono stati in diminuzione secondo le assicurazioni, le associazioni dei consumatori continuano invece a sostenere un quadro completamente contrario. Le ultime stime che sono state diffuse da Codacons e Federconsumatori parlano invece di una crescita delle tariffe al ritmo del 5% annuo. Negli ultimi 10 anni le tariffe RC auto sarebbero aumentate del 145%. Io non ho chiamato questa associazione dei consumatori, ho chiamato Altro Consumo oggi banalmente, perché questa associazione dei consumatori fa dei monitoraggi sul mercato molto ben documentati e molto attenti, tanto che Barbara Baggi oggi ci racconta addirittura che cosa è emerso da uno studio di 15 anni di liberalizzazione nel settore. Baggi, e abbiamo scoperto che in realtà questo 145% esiste, quindi è una cifra che può anche essere confermata, può esistere però per certi profili. Esatto, noi abbiamo fatto uno studio su 15 anni da quando è stato liberalizzato il settore. Abbiamo preso un profilo molto classico, un quarantenne che si assicura per la prima volta, e abbiamo fatto un confronto sullo stesso quarantenne se si assicurasse per la prima volta adesso, che cosa succede. Abbiamo notato che i premi minimi sono aumentati ma in linea con l'inflazione, a parte alcuni casi, come per esempio Napoli, che c'è stato un aumento del 144%. Parlavamo di patologie prima e qua, esatto, questa purtroppo la dobbiamo confermare. A Bari abbiamo il 98%, Palermo l'88%, però per esempio Cagliari è il 35%. Il tasso di inflazione sui 15 anni è intorno al 41-42%, quindi è leggermente inferiore. Venezia, per esempio, è leggermente superiore al 50-70%. Quindi abbiamo visto che tutto sommato il premio minimo ha avuto un andamento più regolare. Cos'è successo invece per il premio massimo? È aumentato in maniera veramente esponenziale. Abbiamo dati che vanno dal più 162% di Aosta a, sempre tristemente, Napoli, più 541%. Questo cosa vuol dire? Che le assicurazioni hanno sempre di più fatto tariffe legate al proprio target. Quindi che è anche giusto, credo, certo. Baggi. Sicuramente, infatti una cosa che noi diciamo sempre è fate più preventivi, perché comunque si può risparmiare. Infatti poi abbiamo anche visto questo quarantenne, 15 anni fa, appunto classe 14, dopo 15 anni sarà uno splendido 55enne se va tutto bene in classe 1. Cioè, insomma, il tema è che se si è un bravissimo quarantenne si può ovviamente pretendere una certa tariffa da parte della compagnia alla quale ci si rivolge, ma chiaramente questa compagnia non potrà fare dei miracoli se si abita a Napoli, e chiaramente li potrà fare invece se si abita in una città dove, come dire, non c'è malavita, dove si vive in maniera piuttosto serena. Allora, Carlo Magnani, collega di Quattro Ruote, ti chiedo ancora un istante di pazienza, perché avendo toccato la questione del sud, c'è Elio della provincia di Salerno che vuole raccontarci subito la sua esperienza. Elio, benvenuto a Salvadanaio. 800 24 00 24 è ancora il numero verde che potete utilizzare per prenotarvi. Elio, benvenuto. Io sono del profondo sud. Non tanto profondo. Ho proprio la mia esperienza. Io sono, 15 anni fa sono passato a una di quelle compagnie telefoniche. Sì. Allora ero in classe 15, adesso sono in classe meno 1. Quindi non faccio discesi da 20 anni, però il mio premio aumenta sempre, costantemente, ogni volta che rinnovo dice sì, c'è stato una riduzione, però c'è stato un aumento, quindi io pagherò, infatti un solo anno mi pare che sia aumentata di un euro, poi sempre qualcosa in 20, 30, 40, 50 euro. Posso fare una considerazione? Certo, Elio, ci mancherebbe. Fra me, che non faccio incidenti da 20 anni, sì, e il mio vicino di casa, un signore che abita a Belluno, che ne fa 3 all'anno, 4 incidenti all'anno, non sembra più giusto. Certo, perché devo essere discriminato. No, intervenire in modo diverso, mi perdoni. O quello che fa 4 incidenti non sa guidare, oppure deve fare un viaggio a Lourdes e farsi benedire perché è veramente sfortunato, ma non è giusto che paghi io. Elio, questo tra l'altro. Ho regalato la polizza, però se io in questi 15 anni ho regalato dei soldi alla compagnia per pagare il furbo, perché in questo caso mi permetto di dire o è furbo o gli sfortunati. O io sono baciato dal signore, spero. No, Elio. No, tra l'altro, Elio, mi scusi una cosa, adesso, a parte il fatto che questa tendenza, appunto, della sua tariffa che ci ha parlato, in ogni caso ha provato a farsi fare qualche altro preventivo. Capisco che il fatto di abitare al sud in una determinata località magari non le avrà permesso di trovare qualcosa di meglio sul mercato, però così ha provato a darsi. Sì, ho provato. In realtà la mia compagnia, che è una delle più grosse d'Italia, non faccio nomi, ovviamente ormai mi conosce da 15 anni, certo, e quindi sa che sono un buon cliente, e quindi mi fa aumentare relativamente poco. Gli altri, come vai da una nuova compagnia, dice vorrei venire con voi, lei dove abita? A Salerno, e boom, partono già, dice vabbè, questo è un furbo che non lo so perché vuole, ma io sono in classe meno 1, però è sempre lei abita a Salerno. Quindi le ripeto, io per fortuna mia abito a Salerno e sto con una compagnia che mi conosce da 15 anni e non gli ho fatto spendere un soldo, non ha speso con me niente, hanno solo incassato. Insomma, lei è un cittadino del sud e paga esattamente quanto un cittadino del nord, che magari è stato protagonista di tanti sinistri e per cui la sua polizza è aumentata necessariamente per questo. Carlo Magnani, adesso parleremo anche con te del risarcimento diretto, so che hai delle cose da dirci a questo proposito, però ti chiederei un commento sul caso del nostro ascoltatore, ma insomma, come dire, sì. Come mi stava venendo un proverbio che adesso mi è sfuggito dalla testa. In ogni caso, situazioni che conosciamo, e Elio ha ben poco da difendersi su questo. Può essere, sì, come dire, il conducente più virtuoso del mondo. Certo, in effetti non è molto facile difendersi se non cercando di in tutti i modi di far funzionare il mercato. Il mercato funziona se funziona l'informazione. Da questo punto di vista i preventivatori che appunto ormai sono disponibili su internet, e soprattutto il preventivatore unico dell'ISVAP, che è entrato in funzione da poco tempo fa, può essere molto utile, perché per esempio quello dell'ISVAP prende in considerazione tutte le compagnie che esercitano il ramo RC auto, e immettendo i propri dati si ottengono proprio una classifica delle tariffe che vanno dalla più leggera alla più pesante. La cosa notevole è che queste preventivi che vengono fatti sono vincolanti per le compagnie per 60 giorni. Quindi per 60 giorni il consumatore può poi rivolgersi alla singola compagnia e dire: io ho avuto questo preventivo e pertanto vorrei essere assicurato con questa cosa. Questo è molto importante, perché è l'unico modo per difendersi in realtà. Poi certo ci sono i casi particolari zone del paese, oppure particolari profili personali, per esempio i giovani neopatentati, dove che molte compagnie fanno proprio, cioè scoraggiano, cioè sono obbligati a contrarre, perché la corte di la giustizia europea recentemente appunto ha dato l'obbligo alle compagnie a contare tutti i rischi, però praticano poi tariffe talmente elevate che poi ovviamente il consumatore non può sostenere il prezzo di questo. Quindi insomma, anche se il nostro ascoltatore, peraltro adesso devo dare la linea ai colleghi del GR Extra Large per le anticipazioni del giornale radio appunto delle 13, però quello che così volevo suggerire al nostro ascoltatore, non ho ben capito se lui si sia attivato in maniera molto seria e stringente per cercare qualcosa di meglio sul mercato rispetto alla tariffa che gli viene applicata dalla sua compagnia storica da 15 anni. Magari qualcosa spunterebbe, qualcosa di meglio, ma insomma chissà se il fatto di abitare davvero in questa città gli pregiudica questa possibilità. A Salva Danaio stamattina, se non mi impappino ulteriormente, siamo ritornati sulla questione dell'RC auto, un tema che frequentiamo spesso a Salva Danaio, che vi piace molto. Abbiamo monitorato molto attentamente le politiche commerciali delle aziende che sono state così percorse negli ultimi anni, la nascita di tanti strumenti per fare preventivi, per valutare le diverse opzioni di mercato. L'ultima grande iniziativa istituzionale è il preventivatore dell'ISVAP, ma ci sono anche iniziative private appunto che ovviamente ci permettono di confrontare le polizze di diverse compagnie. L'offerta si muove, le aziende si muovono, ma il tema è che c'è anche una crisi economica molto stringente, i costi gestionali per le compagnie stanno aumentando, i premi diminuiscono. Tutto questo presumibilmente, abbiamo già delle indicazioni che potrebbe tradursi in un aumento delle tariffe. In realtà stanno già aumentando, a giudicare dalle segnalazioni che ci arrivano dai nostri ascoltatori. Anche i conducenti di auto più virtuosi in assoluto da qualche tempo stanno cominciando a vedere che stanno aumentando i premi appunto versati alle compagnie. È un tema che stiamo affrontando questa mattina con Vittorio Verdone dell'ANIA, l'associazione appunto delle imprese di assicurazione, Barbara Baggi di Altro Consumo e Carlo Magnani, collega di Quattro Ruote. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi. Sentirei Paolo da Milano e poi ricomincio il giro dei nostri ospiti. Paolo. Buongiorno. Sì, io sono andato a fare l'assicurazione della moglie, che è 25 anni, che non fa incidenti, quindi in classe. L'anno scorso era 330 euro, sì. E quest'anno 360. Sì. E l'assicuratore ha detto: beh, siccome sua moglie ormai è nella classe altissima, non è che ogni anno può diminuire. E quindi d'ora in avanti può solo aumentare. E allora? Mi sembra una cosa... Una giustificazione che non sta in cielo in terra. Paolo, si è dato un'occhiata intorno? Sì, ma io ad esempio, io per me faccio l'assicurazione online, sì. Però anche lì ogni anno bisogna cambiare, perché il primo anno te la fanno con lo sconto 3 mesi, e l'anno dopo costa sempre di più di quella che è costato l'anno prima, e quindi bisogna andare a cambiare con un'altra che ti fa gli sconti, bisogna avere tempo e stai di continuare a cambiare. Ha ragione, Il mercato d'altronde è anche questo, Paolo, però insomma no, quello che ci stupisce è un po' quello che capita a sua moglie, siccome è diventata talmente brava e talmente virtuosa che più di quello la compagnia non può fare, e quindi allora riprendiamo ad aumentare. Vittorio Verdone, cosa pensa di questa giustificazione di una vostra associata a questo cliente? Ma associata sarà la risposta, immagino, di un intermediario impropria, perché non è questa la risposta corretta. Innanzitutto è vera una cosa: nelle scale bonus malus, in base alla classificazione del rischio, non si può andare al di sotto di certi livelli. Questo perché sarebbe una violazione non di norme ma di un principio di mutualità. L'assicurazione è mutualistica, tutti contribuiscono con i propri premi differenziati in funzione dell'intensità del rischio, poi ai risarcimenti che vengono erogati per i sinistri che si verificano. Quindi scendere al di sotto è impossibile. La risposta è impropria quando dice da ora in poi la sua polizza non può che aumentare. Questo dipende sia dalla compagnia, sia quindi dai suoi conti economici, sia dalla situazione che riguarda la sinistralità in generale dei costi. E 330 euro, 360, a parte che il premio è evidentemente un premio già abbastanza ridotto rispetto a un premio medio che si può calcolare sull'intera mutualità dell'RC Auto, che è intorno a 550 euro. Perché questa signora potrebbe essere soggetta a un aumento? Perché sono aumentati appunto i costi e quindi i premi effettivi e non le tariffe. Anche qualche volta stupisce un po' che l'assicuratore non conosca le dinamiche del mercato e non dia una spiegazione così un po' corretta. Mi piace perché sono invece risposte che possono essere date in maniera tecnica, un po' più appropriate. Se immagino possano lo stesso non essere condivise magari dal consumatore. Ma la distinzione importante che emerge, non ho fatto in tempo prima a spiegarlo, anche dai monitoraggi effettuati dalla dottoressa Bacci piuttosto che da altre associazioni, è la differenza tra tariffa, cioè il prezzo di listino, e prezzi effettivi. Perché c'è una grande differenza? Innanzitutto perché la tariffa, andandone a seguire l'evoluzione, ovviamente se io prendo in considerazione un profilo di assicurato tipo e lo fermo nel corso del tempo, sto facendo un'operazione teorica. Il quarantenne di 15 anni fa oggi ne avrebbe 55 e se non ha fatto sinistri pagherebbe molto, ma molto meno di quanto pagava, ovviamente al netto di variazioni, diciamo, del fabbisogno tariffario, di quanto pagava quando è entrato nella mutualità. Le differenze tra un ingresso in classe 14 quando ancora esisteva, e poi dovremmo dedicare una puntata a questo problema, e una classe 1 in termini di riduzione del premio può essere anche dello 0,50. Voglio dire, questo sarebbe destinato a pagare dopo 15 anni la metà di quanto pagava quando è entrato. L'altra considerazione è che esiste una flessibilità sui prezzi di offerta, i famosi prezzi di listino che vengono ancora chiamati tariffe come se fossero servizi pubblici, perché gli sconti che vengono accordati nell'ambito di una disciplina che è regolamentata anche dall'ISBAT e che vede le compagnie praticare una flessibilità sia tramite le direzioni sia tramite gli intermediari sul territorio, molto spesso possono rinunciare, può portare a delle riduzioni significative del prezzo indicato in tariffa. Perciò il preventivatore è sicuramente utile come primo orientamento. Quello che è veramente utile è lo shopping, e cioè andarsi a informare presso i punti vendita sulle opportunità che ci sono anche di veder ridotto il premio di assicurazione rispetto a quanto indicato nel prezzo di listino. Lo si può utilizzare anche come mezzo per trattare direttamente con la nostra compagnia se siamo un po' pigri, se non vogliamo abbandonare il nostro assicuratore storico, però di fatto se sul mercato qualcosa si muove non si capisce perché magari anche il nostro assicuratore non ci possa dare una mano appunto a renderci questa spesa un po' più leggera, visto che non è una spesa trascurabile per il bilancio delle famiglie se si hanno un paio di auto, se si ha magari un figlio appena maggiorenne che ha appena preso la patente, il neo assicurato è una spesa appunto non di poco conto. Allora sentirei Nicola da Verona e poi appunto come promesso volevo andare a Carlo Magnani con la questione del risarcimento diretto. Nicola. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Io volevo dire due cose. Sì. Allora, uno, un monito tutti quanti, cambiate, perché io in 4 anni ho cambiato 4 assicurazioni, sono passato da 1.100 euro a 650, vi posso dire anche i nomi, Gruppo Fondiaria prima, dopo sono passato alla Linear, dopo sono passato alla Toro, adesso sono alla Navale Assicurazioni, che comunque è anche collegato alla Unipol Banca, mi ha messo sul box, la pago a rate, perciò cambiate. Quando non vi stanno più bene le garanzie, cambiate, andate, muovetevi, che c'è possibilità ancora di abbassare. E secondo, sul discorso degli infortuni, che ci sono troppi infortuni, questo o quell'altro, bisognerebbe anche andare a guardare dentro, nelle assicurazioni, perché quando mi tamponano e che vado dall'assicuratore e il liquidatore sinistro mi dice: ma tu, il tuo paraurti è un po' vecchio, ti do 300 euro in meno. E questo è una cosa che fanno tutte le assicurazioni, ti sottovalutano il pezzo perché è usato, perché questo o quell'altro. Ormai si parla di persona in persona e dice, beh, i 300 euro li recupero col colpo di frusta. Ah, ecco. allora. È logica, il gioco è quello. Cioè, oppure, non so, io ho una macchina che vale 3.000 euro, non si dice che mi devi dare 10.000 euro, ho una macchina che vale 3.000 euro, arrivi, te la demoliscono, non ho soldi perché al giorno d'oggi con 1.100 euro di stipendio, e cosa fai? Ti arrangi in qualche maniera, ma questo te lo insegnano le assicurazioni, muoverti in questa maniera. Insomma, certo, vabbè, noi diamo sempre dei suggerimenti di buonsenso, non è che possiamo suggerire anche queste scappatoie per recuperare laddove perdiamo. Detto questo, Carlo Magnani, collega di Quattro Ruote, allora 2 anni fa è entrato a regime nel nostro ordinamento il sistema del risarcimento diretto, che ci dà l'opportunità, qualora fossimo malcapitati protagonisti di un sinistro e avessimo ragione, di rivalerci direttamente verso la nostra assicurazione prima di andare a rivalerci verso quella della parte che magari ci ha causato il danno. Da questo nuovo meccanismo 2 anni fa ci si aspettavano tanti effetti positivi proprio in termini di risparmio sui cosiddetti prezzi di listino, come li chiama Verdone, comunque sulle tariffe RC Auto. Secondo te, in questo frangente è accaduto tutto ciò? È entrato in vigore il risarcimento diretto nel febbraio del 2007, se non ricordo male, Carlo? Sì, nel febbraio del 2007. Ma guarda, il risarcimento diretto è stato una vera e propria rivoluzione epocale nel campo delle RC Auto, perché ha proprio cambiato tutti i paradigmi, no? Prima ci si rivolgeva alla compagnia avversa, adesso ci si rivolge in ogni caso alla propria. Vuol dire che quindi, per esempio, l'agente di assicurazione prima era uno che aspettava il cliente una volta all'anno quando c'era da rinnovare la polizza, adesso invece deve vendere un servizio, perché anche la riparazione, la liquidazione e la riparazione sono appunto competenze della compagnia. Il problema è dovuto a questo fatto. C'è una clausola della legge entrata in vigore, quella che appunto ha stabilito l'indennizzo diretto, che prevede la cosiddetta riparazione in forma specifica, che è una cosa complicata, che semplicemente vuol dire che a fronte di uno sconto in polizza, se appunto il cliente accetta uno sconto in polizza, può portare la propria auto da riparare presso carrozzerie convenzionate, con le compagnie di assicurazione, quindi senza sborso di denaro, eccetera eccetera. In sé è una grossa comodità, no? Perché uno va in un posto e non pensa neanche a sborsare denaro. In realtà questo fatto ha provocato parecchie turbative sul mercato. E sarebbe bene appunto che anche il consumatore li considerasse, perché succede un po' come succede con le auto, no? Uno guarda il prezzo di listino e guarda lo sconto, però non guarda mai quanto varrà la macchina dopo 5 anni, oppure quali saranno le spese di mantenimento che dovrà sostenere. Invece, per valutare l'economia di un'auto, come pure di una compagnia di assicurazione, bisogna vedere tutto il ciclo di vita del servizio. RC Auto, questa mattina a Salvadanaio, peraltro avete sentito quanto sta piovendo in tutta Italia, quindi guidate tutti con prudenza e non dateci modo di tornare a parlare ancora di questi argomenti, perché aumentano i sinistri, anche se poi qua di sinistri poco si tratta, se si tratta di appunto camminare e viaggiare su strade rese leggermente scivolose dalla pioggia. Stamattina tra l'altro nubifragio terribile anche su Milano, adesso l'abbiamo scampata. Allora, Carlo Magnani, Quattro Ruote, ci stava un po' spiegando come funziona il meccanismo del risarcimento diretto, soprattutto quando, una volta che siamo stati incolpevoli o meno protagonisti di un sinistro, dobbiamo ovviamente rivolgerci per sistemare l'auto alle carrozzerie convenzionate con le compagnie di assicurazione, proprio perché il meccanismo vuole velocizzare un po' tutto il processo, no, di risoluzione di questa controversia. Carlo, però, che cosa succede? Ma succede un po' questo, che intanto c'è un dato preso proprio dalla relazione dell'ISVAR, perché circa la metà degli assicurati hanno accettato in polizza di avere un risarcimento in forma specifica. Ripeto, vuol dire dover poi andare da un carrozziere o da un meccanico appartenente alla rete della compagnia di assicurazione. Ma bisogna per forza, tra l'altro, andare alla carrozzeria convenzionata, non si può scegliere qualcos'altro? No, se hai sottoscritto in polizza questa clausola, devi andare per forza. Per contro hai un piccolo sconto, in genere del 5%, in virtù del fatto che tu devi sottostare questo obbligo. Sì. Però il problema è che l'obbligo, cioè c'è qualche problema in questo senso. Proprio per ridurre i costi, no? Visto che abbiamo visto e sentito prima da Verdone che appunto le compagnie giustamente cercano in tutti i modi di ridurre i costi, le compagnie stanno già da tempo concludendo con le proprie reti di carrozzieri convenzionati, alcuni sono proprio reti con un marchio, cioè molto organizzate, dei contratti economici che a volte sono penalizzanti per il lavoro del carrozziere, nel senso che magari sia come tempi di riparazione sia come tariffe di manodopera riconosciute al carrozziere sono un po' penalizzanti. Ultimamente poi è successo anche questo, che molte di queste reti stanno cominciando ad acquistare in proprio i ricambi che poi per riparare l'auto, e questo vuol dire che al carrozziere viene meno anche quel margine di guadagno sulla vendita del ricambio, no? Allora il ragionamento che mi faccio io è questo, vedo, perché appunto professionalmente li contatto molto spesso, vedo i carrozzieri che sono molto arrabbiati per questa cosa qua, vedo che si lamentano del fatto che non ci stanno dentro. Sì, l'indennizzo diretto ha comportato l'ira di molte categorie come i periti, l'infortunistica, esatto, e quant'altro, i legali, esatto. Però il problema è che nel caso del carrozziere c'è un problema di sicurezza, nel senso che se io carrozziere non ci sto dentro e allora tiro via il lavoro, poi la macchina che mi ritorna indietro sarà sicura come era sicura prima dell'incidente? Però o no? Anche questo lì è un dubbio che è lecito sollevare, Carlo, però anche lì anche i carrozzieri che apertamente dicono una cosa del genere, voglio dire, io poi magari per carità mettere all'attenzione generale un problema di questo tipo è anche lecito e corretto che lo facciano, che però vengano a dire anche apertamente che poi non fanno seriamente il loro lavoro. Come dire, tu hai fatto 2+2. Esatto, rimane il sospetto proprio perché appunto c'è anche un conto economico del carrozziere oltre che della cosa. Che delle compagnie. Questo, secondo me sì, è un problema. Se puoi fare brevemente, Carlo, perché ho altri ascoltatori che vogliono raccontarci. Semplicemente questo è un problema che secondo me dovrebbe interessare in primo luogo proprio le compagnie, le assicurazioni, proprio perché un cliente insoddisfatto per un'assicurazione vuol dire magari una polizza, non solo la polizza di auto, magari una polizza lite, una polizza furto incendio, certo. Quindi potrebbe essere un danno economico notevole. No, tra l'altro è un ragionamento interessante, perché è un po' come succede per i mutui, un po' come succede per il rapporto con la banca. Molto spesso noi inseguiamo solo ed esclusivamente il risparmio, no? Ma è giusto, adesso è tempo difficile per i budget familiari, però molto spesso ricordiamoci che dietro ad un risparmio esasperato di tutto a volte si viene anche a far mancare, come dire, la qualità dei servizi. Non ci dimentichiamo di questo aspetto. Se noi da un'assicurazione ci aspettiamo qualcosa di più, un rapporto costante magari con la compagnia, magari ecco, si può continuare a mantenere il rapporto con l'assicuratore in luogo per esempio delle compagnie dirette, a patto però di sostenere un onere un po' più alto, per cui insomma il tema è sempre quello, lo abbiamo affrontato tante volte. Romano dalla provincia di Lecco, buongiorno. Buongiorno, ci dica allora, tutto. Tornando al problema dei premi, delle tariffe, io volevo portare la mia piccola esperienza. Ho smesso di fare lo shopping tra una compagnia e l'altra perché poi ti puniscono, ti premiano per entrare e l'anno dopo ricaricano, fermandosi sulla stessa compagnia ma non fermandosi al primo preventivo che ti mandano, insistendo, vedo che riesco a ottenere dei buoni sconti. E questo è il suo suggerimento, quindi trattare richiede pazienza, non fermarsi alla prima risposta ma poi lasciare lì ferma la cosa, prendere tempo, richiamare che al secondo, al terzo tentativo si riesce a limare. Va bene, Romano, la ringrazio per il suo suggerimento, che è quello che tra l'altro ci stanno facendo molti ascoltatori. Ce n'è un'altra di mail che mi aveva incuriosito, non è una mail, anzi è un messaggio al 349-238-6666. Le assicurazioni online non sono affatto più convenienti, o perlomeno non lo sono più come una volta. Ho fatto 5 preventivi, ci racconta Antonio da Como, erano simili a quelli tradizionali, a quelli delle compagnie tradizionali, o addirittura in alcuni casi più cari. Io ho una classe di merito, una prima, una quindi insomma il massimo, niente sinistri, guida esperta. Barbara Bagile, che questo settore lo controlla con la stessa attenzione dell'ANIA e di Carlo Magnani di Quattro Ruote, insomma i benefici delle compagnie dirette ne abbiamo parlato tante volte, ovviamente ricordiamoci sempre che abbiamo a che fare non con una persona fisica ma con un call center, però insomma la risoluzione dei sinistri avviene con la stessa professionalità di una compagnia normale, si rinuncia a qualcosa ovviamente con il beneficio economico per le nostre tasche, ma è vero che oggi non sono più tanto convenienti come in passato? Quello dipende dal profilo, non si può fare generalizzare. Una generalizzazione, per alcuni profili sono ancora le più convenienti, per altri no. È sempre il solito discorso, tra l'altro l'8% degli italiani cambia assicurazione da un anno con l'altro, quindi è una percentuale bassissima e bisogna far funzionare ancora di più la concorrenza. Tra l'altro una piccola precisazione, il nostro studio, ricollegandomi al discorso che aveva fatto Verdone prima, noi abbiamo fatto anche poi lo studio del quarantenne che diventa appunto 55enne in classe 1. Se cambia compagnia riesce a risparmiare molto, a pagare molto meno rispetto a se non la cambia, perché sì, i premi magari nel 15 anni proprio per una questione di classe di merito, di scalo di classe di merito diminuiscono, non in tutti i casi, per esempio abbiamo avuto comunque, notato comunque degli aumenti, se per esempio a Palermo quasi un 7% in più nonostante ci siano 15 classi di merito in meno. Però se si cambia c'è la possibilità comunque di tirare giù il premio. Non sempre succede, bisogna contrattare, è difficile, però ne vale quasi sempre la pena. Ecco. Io devo concludere la trasmissione, ho 30 secondi di tempo e se mi promette che in 30 secondi ci sta, assegno la conclusione di oggi a, come dire, l'organo istituzionale, a Vittorio Verdone, l'ANIA. Abbiamo sentito ovviamente quello che potrebbe succedere, ne abbiamo parlato, abbiamo spiegato le motivazioni, abbiamo ancora una volta invitato i nostri ascoltatori a non darsi per vinti quando non sono soddisfatti del servizio, delle tariffe o dei prezzi di listino come lei li giudica, e insomma la prossima volta che invitiamo Verdone di che cosa dovremmo parlare secondo lei? A questo punto di aumenti conclamati o possiamo ancora sperare che tutto questo non accada? Ma soprattutto le verifiche da fare sulle variazioni di prezzo dovrebbero essere effettuate sulle raccolte premi. Noi, posso anticipare, abbiamo studiato con le associazioni dei consumatori nell'ambito di un nostro forum permanente che ci vede sempre a discutere delle tematiche dell'assicurazione in generale, ma anche molto di RC Auto, con le associazioni dei consumatori, un monitoraggio, uno strumento che possa andare a verificare effettivamente quanto pagano gli assicurati. Siamo in attesa di avere dei responsi sulla praticabilità di questo strumento da parte dell'autorità garante per la concorrenza del mercato. E credo che quella sia la strada innanzitutto per avere uno strumento condiviso, perché la guerra di cifre non piace a nessuno, fa confusione, no. Genera essa stessa anche paura. Anche perché l'assicurazione perché non ne possiamo prescindere. Aumenta sempre, in 5 anni è diminuita. Sicuramente questa tendenza probabilmente è destinata a fermarsi, la tendenza alla diminuzione per quello che abbiamo detto prima sui costi che non sono diminuiti, ma comunque quantomeno che abbiamo a disposizione un sistema che lo misuri in maniera coerente e condivisa. Corretta. Verdone, quando sarà pronto questo strumento ce lo venga a raccontare naturalmente in anteprima. Come al solito anche oggi ho rubato un minuto ai colleghi di GR Extra Large, chiedo perdono. Salvadanaio torna domani, grazie a Vittorio Verdone, Barbara Baggi e Carlo Magnani per essere stati con noi, ci sentiamo domani, buona giornata.